fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate sì. di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, delle adozioni, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono costretta ad allontanarmi, mi trovavo sotto la curva, ma sentite, saranno arrivate 6-7 bombe carta e sono stato costretta ad allontanarmi. Scusa però... Alessandro, sì. un tifoso del Napoli, a nome di tutta la tifoseria, ha detto giochiamo. Si sa del pallone, chissà. Dice la bugia o la verità? Una bugia o la verità? Il sindaco, anzi no, quale sindaco? Il ministro, no, stavo pensando a Fassino che è un'altra cosa, caro Parenzo. Il ministro degli interni, nonché leader del nuovo centrodestra, Fassino, quando, sì Fassina, ridai, Alfano, quando no, sostiene che cosa? Quando sostiene che non c'è stata alcuna trattativa. Cioè noi abbiamo visto esponenti delle istituzioni, poliziotti, eccetera, eccetera, sotto la curva. No? Sotto la curva lì, certo. parlare con Jenny a Carogna, no? Con Gennaro a Carogna, e ci dicono che non c'è stata alcuna trattativa. Peraltro lo stesso questore prefetto. No, il questore non è il prefetto. No, io ho letto il prefetto in una bellissima intervista del signor Bonini su Repubblica oggi. Il quale sostiene che cosa, signor Pecoraro? Sostiene che in realtà bisogna trattare per forza dentro lo stadio, perché... Esatto. Quando vuoi liberare gli ostaggi, questo è il paragone, devi trattare con i rapinatori. Comunque Alfano, va, sentiamo. La società del Napoli ha ritenuto di fare incontrare AMSIC con un alto dirigente e con uno della curva per chiarire che non c'era stato un attacco alla tifoseria del Napoli in quanto tale. Ma noi come forze di polizia, come governo, come paese non abbiamo fatto nessuna trattativa, ma non sta né in cielo né in terra un'ipotesi di questo genere. Poi dice che sta pensando al DASPO a vita. Il DASPO è quel provvedimento che impedisce ai violenti di entrare allo stadio. In realtà Alfano forse non lo sapeva, il DASPO a vita esiste già, non è stato mai applicato, ma gentile ministro dell'interno, esiste già il DASPO a vita, cioè, non è una novità. Io qui da lei, non l'ho fatto nelle ore precedenti sapendo di dover venire qui da lei, annuncio che noi daremo un giro di vite fortissimo e che sto pensando anche al DASPO a vita. Ma c'è già il DASPO a vita, esiste già. No, però scusami amico mio. Dimmi, che c'è? Permettimi, perché prima ho stai urlando al telefono e non si sente niente, Davide, dai. No, non voglio urlare perché sono a Bruxelles. Sì, non me ne frega niente, dai, dimmi. Il signor Pecoraro, Giuseppe Pecoraro, sì. Intervistato oggi dal signor sì, D'Avanzo. Sì, l'ho detto, sì, D'Avanzo è morto, da Bonini. Signor, sì. Scusami, da signor Bonini, da sì. Signor Bonino, Savico Bonini. Dai, dice forza. Molto di più. Sì. No, dice molto di più. Dice che è un interlocutore in quel caso necessario e se la prende con chi lo ha fatto. Cioè lui, Pecoraro dice, non doveva neanche essere lì questo signor Carogna. Signor Carogna non doveva neanche essere lì con quella maglietta, che è evidente, ma nel momento in cui è là è ovvio che per lui è un interlocutore. Quindi lo dice il prefetto di Roma, amico mio. Grillo paragona sostanzialmente Grillo a Renzi, a Jenny a Carogna, addirittura sopra la figura, la maglietta speciale Libero, speciale quel tifoso che ha ucciso un poliziotto a Catania, lo paragona a Renzi, ci mette il volto di Renzi. non c'è con la polizia che era lì a calmare Jenny la carogna. Io mi vedo già che sarà invitato al Nazareno Jenny la carogna con Alfonsi il bastardo e diranno: signor Carogna, venga, possiamo fare una legge insieme per vedere un po' di togliere la violenza negli stadi. Perché? Immagino che, Parenzo, tu consideri indegna questa cosa di Grillo che attacca il Presidente del Consiglio in questo modo, ma è la campagna elettorale, mio caro, no? No, io penso che Renzi, ti stupirò forse, mi dispiace, ma io penso che Renzi si sarebbe dovuto alzare, in particolare anche la seconda carica dello Stato, oltre a Renzi, il signor Grasso, che sì, è stato a capo dell'antimafia, della DIA, che è la seconda carica. Ma che c'entra, dello... dai, forza, sì, ho capito. No, si sarebbe dovuto alzare, perché appena mi immagino. Ma quando, ma quale delle... alzare? Ma quando mai? Se ne sarebbe dovuto andare. Ma sarebbe stata una resa. Hai capito? Ma va. E te lo dice uno che ha sempre ma sarebbe stata una renziano. Ma sarebbe stata. Io non sono renziano. Io quando c'è da criticare critico. Ma non secondo c'è me, ma è una critica stupida. È una critica stupida. Di niente, perché sarebbero dovuti andare subito a casa della signora Raciti. Subito. Ma che c'entra a casa di una salita che sta a Catania? Ma sei proprio un imbecille, al limite all'ospedale a trovare quello, che peraltro è stato accusato anche lui, di aver partecipato alla rissa, perché non è che quelli che stanno in ospedale si possono dichiarare così, no? Impuniti. Le indagini, la partita, ma andartene. Le indagini proseguono. Ma andartene. Beh, andiamo su Berlusconi che dice che vuole diventare padre della patria. Ma che mi interessa a me? Io ne uscirò assolutamente mondato da tutte le accuse che mi hanno fatto e dentro di me, se vuole, oso dirglielo. Diventerò il padre della patria. Questo me lo devi spiegare però. Perché lei pensa che contribuirà a cambiare questa legislazione? Io penso di essere nelle condizioni, in questo momento, che il destino ha messo me nella condizione di dover essere l'uomo del grande cambiamento per il nostro paese. Ma abbiamo con noi il primo ospite della serata, Giampiero. Ciao Giampiero Mughini. Eccoci cari amici, eccoci, mamma mia, che orrori. Com'è che orrori. Lo so. Tra l'altro c'è la vicenda di Piero Fassino, che imperversa un po' ovunque, sindaco di Torino, il quale, dopo essere stato sbeffeggiato, contestato da tifosi del Torino, che erano a Superga per l'anniversario di Superga, ha mostrato il dito medio. Ora, al di là delle considerazioni, la prima volta nella storia credo che un esponente della sinistra importante come Fassino fa un dito medio, che finora era proprietà della destra, se vogliamo. Abbiamo visto Bossi, Gasparri, la Santanchè, eccetera eccetera. Io devo dire la verità, Parenzo, assolvo Fassino in questo caso, perché un gesto di stizza, un gesto di reazione, un gesto di rabbia, alla fine è un gesto umano. Cioè, questo è stato, Giampiero, questo è stato insultato per 20 minuti o no? Giampiero, aspetta, fammi sentire Giampiero prima. Ma dunque lui è stato insultato in quanto, diciamo, filo juventino, se capisco bene. Esatto, sì, gobbo di merda, eccetera. È stato insultato perché i tifosi del Torino reputavano che Superga non fosse stata celebrata adeguatamente, mi pare di capire. Ma sì, quello, diciamo, secondo me l'avrebbero contestato comunque. Sì, ma non allora caso. Naturalmente siamo sempre nell'ambito dell'orrore. Sì, certo. Figuriamoci, chiaro. Se Fassino è uno che non ritiene che Superga è un lutto di tutti gli 60 milioni di italiani, sì, lo avranno insultato nel modo loro elegante, articolato, eccetera, e lui ha avuto una reazione. Mi sembra, ammesso che ci sia un peccato di Fassino, che sia un peccato venialissimo, e che sotto stress un gesto di stizza ce l'hai. L'orrore di insultare quello lì, eccetera, è l'orrore. Ma hanno tirato anche pietre, hanno tirato pietre. Non della grande bellezza, questo non è il paese della grande bellezza, è il paese dei grandi orrori, nella politica, nel costume, nel tifo calcistico, nel linguaggio diffuso, nei tweet che partono ogni giorno a milioni. E vabbè, Anche la zanzara è il grande orrore, si può dire ogni tanto? No, io non penso che assolutamente che voi siate un grande orrore, per carità, siete due ragazzi intelligenti e furbi, e penso che talvolta tiriate l'elastico, cioè che nell'esporre le nostre macchiette ci inzuppate il biscotto. Ah, non c'è dubbio, cioè navighiamo, nuotiamo in mezzo all'orrore e qualche volta contribuiamo anche, bisogna dirlo, contribuiamo. Ma a non questo. So se contribuite, certo non dico che lo avvalorate, alcune di queste macchiette, io per esempio qualche tempo fa stavo sentendo da voi, perché siccome non seguo molto le vicende delle macchiette, un certo Razzi. Sì, vabbè, allora io non sapevo chi fosse, poi naturalmente ho saputo, io non ci posso credere che uno di questo stia nella vetrina e i giornali lo intervistano e poi ci sono i commenti sulle sue interviste eccetera eccetera, che non ci posso credere, ma non posso credere a nulla, io non ci posso credere ai luridumi che escono ogni giorno dalla bocca di Grillo, le cose contro Napolitano che dovrebbe andare lì nell'ospizio dei malati di Alzheimer. Sì, ci sono un po' scorre. Le porcate che ha detto Berlusconi l'altra sera, non solo quella del padre della patria, che neppure me ne accorgo, ma che aumenterà di 300 euro a cada uno le pensioni minime, le porcate di Matteo Salvini, capo della Lega, il quale si allea con la Marine Le Pen, la quale probabilmente lo considera neppure una pezzuola per lucidarsi i tacchi. Che vuoi che ti dica? Vabbè, signor Salvini ha fatto un'alleanza politica, certo che dice che per esempio la Fornero deve andare a fare in culo, questa oggi la sua, come dire, esternazione durante un tour elettorale. Cioè, ha detto proprio così, la signora Fornero deve andare a fare in culo. Ti vorrei far ascoltare questo passaggio che è abbastanza significativo della campagna elettorale di Salvini. Partiamo con Salvini e Fornero. Cancelliamo quell'infamia che si chiama legge Fornero e vaffanculo la Fornero e chi gli ha fatto fare il ministro. Scusate bimbi, non si dice, mi è scappata. Alla faccia della Fornero, maledetta, guardali in faccia, maledetta, ladra di pensioni, ladra di stipendi, ladra di lavoro, ladra di futuro, torna all'asilo invece di fare la politica e invece di fare la professoressa. Caro Giampiero, ma questo ciarlatano è Salvini? Sì, è Salvini. Mamma, ma io non capisco, ma perché Jenny la Carogna è peggio di lui? Non lo so, Jenny la Carogna è al suo livello, no? Anzi, uno potrebbe dire, almeno Jenny la Carogna non si candida per il momento a fare, che ne so. Oltretutto Jenny la Carogna ha un suo ruolo di capo di un'orda, sì. È vero, e lì sta, mi sembra. Talvolta si mette a torso nudo, talvolta no, il che fa una certa differenza, perché anche nell'orrore c'è una gradazione e lui a torso nudo veramente è duro da beh, sì, lo si è visto. E quello là invece è un leader politico, addirittura è un leader politico che rappresenta i Lombard, cioè la gente della regione industriale di punta del nostro paese. Ma ti rendi conto che cosa noi appariamo al mondo? Vabbè, uno può dire anche la campagna elettorale, i toni accesi, no? La campagna elettorale giustifica qualsiasi porcata, quelle che abbiamo ascoltato in questi minuti, eccetera, ai vostri microfoni, o comunque che abbiamo ascoltato dappertutto. Quello là che dice al Presidente della Repubblica vai nel reparto dei malati di Alzheimer. Quello lo dice a prescindere dalla campagna elettorale, bisogna dire. Lo dice perché il suo pensiero, questo è. Sua, diciamo, colonna dorsale intellettuale, questo è. Tra l'altro, ognuno fa quello che può. Questo può. Non è il punto che lui possa questo. Sì. Il punto è che i sondaggi gli danno il 22, il 24, il 25. Senti, ma secondo te chi vota Grillo è un coglione? No, chi vota Grillo è un italiano confuso, rabbioso, non sempre illetterato, anzi sembra che i suoi elettori siano fra i più dotati di titoli di studio. No, è un italiano rabbioso, frustrato. Un italiano che vuole scaricare la sua rabbia, ma che vuoi che ti dica? E che pensa che votando un pagliaccio esibizionista la situazione migliore, non so che cosa. Cioè, Grillo ha detto che straccia i trattati che abbiamo con l'Europa, cioè lui si presenta dalla Merkel, si presenta dalla Merkel, la quale è nata nella Germania Est, quindi se ne intende di orrori reali, capisci? Di orrori reali se ne intende. Si vede arrivare questo qua tutto agitato, eccetera, che strappa il trattato. Ma io non lo so, la gente vota per questo qua. Ma non, può ma non è possibile, non è possibile. Beh, io non ho un fatene una ragione però, Giampiero, la gente vota questo significa o queste persone sono impazzite oppure qualcosa non torna negli altri. Perdonami. Il voto, sai, Hitler ebbe molti voti all'inizio degli anni 30 e moltissimi ne hanno avuti altri, se non come Hitler, eccetera, eccetera. Quindi il voto di per sé non è una misura, il popolo sovrano. Il popolo è anche quello che abbiamo visto in azione in vari modi. Il sabato sportivo, cos'era il sabato? Sì, a proposito, il sabato. A proposito, tu avresti trattato con Jenny Acarogna, era inevitabile oppure no? Io dico solo una cosa, sopra quel trespolo lì, uno con quella maglietta speciale libero, uno che comanda a bacchetta, innanzitutto già non ci deve stare sopra lì. Cioè, sopra... No, ma però perdonami, se vai alla sostanza della cosa, Giuseppe, stiamo parlando sempre dell'orrore. Alla fine, nell'aprile 1945, quando le forze alleate stavano trattando con i soldati, con l'esercito tedesco, la resa delle forze tedesche in Italia, trattarono con un comandante delle SS, non con San Francesco d'Assisi. Se tu hai a che fare con un'orda, la quale orda in quel momento sta per diventare padrona dello Stato, devi trattare per forza, certo. Ma io non so, sai, tutti quelli che stanno dicendo Speziale, quasi nessuno probabilmente conosceva Speziale per essere quello che ha preso 8 anni per aver ucciso un commissario di polizia, quindi in effetti Senti, ma ha ragione, Parenzo è completamente priva di senno, che quello si doveva precipitare, ma dove doveva andare? Detto questo, è l'orrore che c'è quello appollaiato che con il pollice comanda l'orda e la partita si fa, ed è bene che si sia fatta, perché sennò c'era ancora più casino. E poi mi pare che non fosse tanto la trattativa quanto il fatto che il povero Hamsik li rassicurasse che non c'erano morti fino a quel momento. E ripeto, stiamo parlando del regno dell'orrore. Vada bene, il regno dell'orrore, che non è dato soltanto... Ma tu chiuderesti le curve, per esempio? Impediresti le trasferte, chiuderesti le curve? O no? Sai, questo significa punire le società. Ma che società? Ma questo significa dare una svolta chiara, netta. Basta trasferte, basta curve, per 3 anni, moratoria. Di fronte alle pistole bisogna reagire così. Grazie, Giampiero, ciao. Mamma mia, ciao. Che orrori. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Ti voglio far sentire, caro Davide, quello che ha detto nell'intervista a Sky TG24 Grillo qualche giorno fa, ieri. Ha detto: cosa si può fare con le stampanti? Io ancora questa cosa qui, ti assicuro, l'ho sottoposta a diverse persone, non l'ho capita. Cioè, secondo lui, davvero, cioè, materialmente, con le stampanti in 3D, con le stampanti in 3D, sì, si possono fare le dentiere, le canoe, le case, eccetera, eccetera. Con senti, le stampanti. Senti, senti, con le stampanti 3D, con le stampanti 3D. Oggi le stampanti costano $50,000, sono nei comuni degli Stati Uniti e i cittadini vanno lì, prendono un file della cosa che si vogliono costruire, lo mettono nella stampante e si costruiscono quello che vogliono, dalla canoa alla dentiera alla casa, fanno le case di 100 metri quadri con le stampanti, con un terzo di energia, con un terzo di materiale e con un terzo di manodopera. Tu l'hai capita sul serio questa cosa o no? Cioè con un terzo hai sentito, no? Cioè con le stampanti in 3D si fanno tutto questo, ma davvero? Ma io veramente non ci posso credere. Ma cioè... è tutto virtuale, ma certo! Cioè? Spiegami! Ma è tutto virtuale, non sai. Tu lo immagini quello che vuoi, lo pensi, colleghi con le sinapsi del pensiero al computer, il computer le disegna e improvvisa, poi lo stampa e poi non c'è un cazzo, però c'è il disegno in 3D. Ho capito, però non è che devi andarci ad abitare. Grillo, non ci vai ma ad abitare. Ma come non ci vai ad abitare? Dove campi? Ma no, è tutto nella rete, no? Sei morto, sei vecchio. Cosa c'entra la casa? Ma uno dove dorme? Scusi Grillo, dove ma dorme? Ma vai in fanculo, ma cosa c'entra l'architetto e l'ingegnere? Che costruisce. Tu te lo spiega, tu pensi col pensiero, la immagini, la vedi, e automaticamente il computer la disegna, premi un click, viene fuori il disegno e fatta la casa. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. UE Italia in crescita ma pesano debito e disoccupazione, Istat verso la ripresa dei consumi, Padova misure giuste, ci vuole tempo. Renzi europea ed arbitra, rabbia e speranza, Grillo uno sciacallo, riformare la Costituzione non è autoritarismo. Napolitano ai giovani magistrati, difendo il principio della divisione dei poteri, serve un nuovo clima di pacatezza. Coppa Italia, un nuovo video sulla sparatoria, ancora polemiche sul ruolo degli ultra, il CONI contro la violenza si è fatto poco e male. Arrestato per rissa anche il tifoso ferito, piantonato in ospedale, la madre trattato come un delinquente. Un anno fa il crollo della torre dei piloti nel porto di Genova, i genitori di una delle 9 vittime al TG3, giustizia vera non simbolica. Rivendicato da Boko Haram il rapimento delle 200 ragazze nigeriane. Le venderemo al mercato, dice il leader del gruppo terrorista islamico. Un meraviglioso Oliviero Toscani alla Zanzara venerdì in diretta da Perugia. Questa la sua filippica contro la Chiesa Cattolica. Molte proteste ci sono state, caro Parenzo, molte proteste sono arrivate, molte mail ho ricevuto, molta gente, ferventi cattolici si sono letteralmente incazzati per queste parole di Oliviero. Pensa di essere un marziano, cioè un extraterrestre. Sì. Ti atterri, diciamo in Italia, sì, entri in una bellissima chiesa cattolica, sì, non sai niente di quello che è delle condizioni. Sì, sì, sì. Dunque? Entri, vedi uno attaccato, inchiodato a una croce. Beh, vabbè, che sanguina. Vabbè, no, allora... no, poi un altare, sì, un altare con dei bambini nudi che volano, vedi quell'altro sanguinante perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso no, non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba simile. Ma non si può, sì. Ma scusa, io sono entrato. La chiesa peggio di un club sadomaso. Poi ancora Oliviero dice Vaticano maschilista, un grande club omosex. Tutti uomini, sì, le suorine di fianco, le serve, sì, le donne. Ma come voi sei, donne non vi incazzate? Ma scusate, voi donne non vi arrabbiate di questo club di maschi e basta? Ma nessuno le obbliga. È anticostituzionale, ragazze, svegliatevi invece di fare le femministe. Ma se uno sceglie... Andate in chiesa a lamentarvi. Cioè le donne si dovrebbero arrabbiare... Non avete lo stesso parità di diritti con questi qua del Vaticano. Cioè che è un club solo di maschi. Ma è logico, è la più grande invenzione omosessuale che ho mai visto. E poi chi non ha subito molestie da preti? collegio un confessore che ti palpava. A un certo momento gli ho preso per mano, l'ho portato pure fuori dalla mensa e dico: scusi, questo qua palpa. Ma è venuto fuori un casino. Cioè hai subito molestie da preti, da giovane, da ragazzino tu. Ma io vorrei sapere chi non le ha subite. Beh, no, Il Vaticano è una grande organizzazione omosessuale, si vestono da donna. Aspetta, è la più grande organizzazione maschilista, diciamo. Omosessuale. Omo, per favore. Però non si fa vestono, male a nessuno. Però si quelle vestono da donne, e ragazzi, non è con le sottane, è con tutto, ma fantastico. È l'abito talare. Sì, sì, è vero. E a concludere, caro Parenzo, sempre in modo, come dire, sobrio, soft, moderato, Wojtyla, un assassino. Fece una battaglia contro il Papa, che adesso è santo, è la radio questa, santo, perché lui era contro il preservativo in Africa. Sì. Vi rendete conto con l'AIDS in quel periodo? No, ma su questo hai ragione. Ha fatto dei disastri. Un assassino. Ma di cosa? No, cioè Wojtyla è un assassino. Adesso mi stanno mandando un sacco di tweet, un sacco di mail. È vero, esistono le stampanti in 3D per fare le case. Le stampanti 3D potranno costruire case in 24 ore. Mi stanno mandando ovviamente fan grillini e non solo, un sacco di indicazioni. Luca da Brescia, buonasera. Luca, sono generale dell'esercito di Parenzo. Ah, ridai con sto generale dell'esercito di Parenzo. Già ci ha fatto fare una figuraccia con Bruno Vespa. No, devo difendermi dalle infamanti accuse che mi sono state rivolte. Ma da parte di chi? Da parte di chi? Da parte dei fans di Riccardo da Roma, da lei spalleggiati, Cruciani. Su che cosa? Su Twitter. Sì. Perché su Facebook, anzi, mi hanno scritto in posta. Vabbè, insomma, al di là di questo, Luca, perché? Allora, al di là di questo, io volevo rispondere un attimo al signor Bruno Vespa, che vorrei dire che, tra parentesi, no, per carità, la mia era soltanto una battuta, mentre invece lui nella risposta ha piccato voi due. Vabbè, Luca, però al di là di queste cose, Bruno Vespa, il Riccardo da Roma Fans Club, per quale motivo al mondo lei oggi ha preso il telefono e ci ha chiamato, caro generale dell'esercito di Parenzo, che allora, peraltro Parenzo disconosce? Sì, lo so che lo disconosce, ma noi siamo nati come esercito pacifico per difenderlo dalle minacce, quindi siamo un movimento totalmente pacifico. Ci è stata lanciata l'accusa finché dicendo che sono soltanto io, eccetera, mentre invece vorrei dire che il quartier generale dell'esercito di Parenzo si trova nell'università di Brescia. Bene. Quindi è formato da ingegneri, architetti, eccetera. Ho anche svariati esponenti, tra i quali adesso ne ho qui uno disponibile. Lei mesi fa, Cruciani, mi disse di diffondere il verbo della zanzara. Beh, certo, è chiaro. A tutti i miei coetanei, così ho fatto. Infatti all'università adesso ci siamo spostati a fare un aperitivo in centro a Brescia. Sì. E siamo qui ad ascoltare la zanzara con lei. Se vuoi posso passare chiunque. No, non passi nessuno, Luca. Grazie, continuate ad ascoltare. Aldo da Modena. Buonasera. Aldo, dica. Sì, senta, volevo rispondere a quel cesso di Mughini là. Sì, perché cesso di Mughini? No, che ha fatto? Come si permette a dire che vota per Salvini, che vota Grillo e questo e quell'altro, uno come lui, Ricchione, ma veramente non è Ricchione, non mi risulta sia Ricchione. Ricchione, non lo so come si dice in italiano, dall'altra sponda, cioè dopo 50 anni se fossimo tutti come lui l'Italia finisce, ma che cazzo parla a fare questo? Scusi, a caro, andasse a dare il culo via, come si permette chi vota per Grillo, chi vota per quello, come si permette? Caro Aldo, l'angolo lui è dove è nato. D'accordo, caro Aldo, vedo che lei grazie, vedo che no, prego, per carità, lei ha preso un perfetto accento modenese, mi sembra di capire. No, modenese, io sono Sugno Calabrese. Ma questo si era capito. E sono onorato di essere calabrese, capito? No, per carità, ma nessuno metteva in dubbio il suo orgoglio nel sentirsi calabrese. Non voglio, perché io sono a 35 anni qua a Modena, sì, e non mi piace parlare in asci. Io parlo calabrese perché sono calabrese. Va bene, comunque, ma per carità, va benissimo. Io voglio dire Aldo, però comunque, al di là di tutto, ti voglio dire, però, caro Aldo, ti voglio dire che Mughini non è affatto, poi non ci sarebbe nulla di male, non è affatto omosessuale come tu immagini, non è affatto gay, hai capito? A me mi sembra, non lo so, a me sembra che sia come così. Comunque, ma sembra da che cosa? Ma perché ti fanno schifo poi gli omosessuali? Scusami, Aldo. No, non è che mi fanno schifo, però ho detto che dopo 50 anni, se fossimo tutti gli italiani, sì, come lui in Italia finisce. Questa è la vecchia. A me non mi fa, non è schifo, non è. Io le evito quando posso, perché io non ci vado, capito? Li eviti, ma non è che poi non è che infestano i posti, uno li debba per forza evitare. Ma come si permette chi vota per Grillo, chi vota per quello? Come si permette? Ma va in culo lui e dove è nato? Io lo so, Parenzo, tu cosa vuoi? Tu vuoi Gennaro Genny a Carogna. Tu questo vuoi, vero? Beh, io vorrei sì che tu lo chiamassi, vorrei fargli un paio di domandine al signor Carogna, sicuro? Fosse possibile, sicuro? Sicuro? Grillo maramaldeggia su questa cosa, dice che lo Stato non c'è più e che si chiede a Gennaro a Carogna, ma lo stesso Brunetta attacca ma Renzi. Aspetta, però. Brunetta che dice? Ma Renzi, una volta che do ragione a Grillo. Un attimo, Renzi è davvero quel signore visto allo stadio della disfatta dello Stato, immobile come se fosse uno spettatore che aveva pagato il biglietto, un po' seccato per il ritardo che gli impediva di andare a Palazzo Chigi a spedire dei tweet? C'era la minaccia di violenza? C'è stata la trattativa con Genny a Carogna, il capitano del Napoli, scortato da capi di polizia e carabinieri, va sotto la curva? Poi ci vanno da soli i funzionari, lui c'è ma non esiste. Il problema è che quel suo modo di stare allo stadio è assolutamente anonimo, incapace di leadership nella realtà e non nelle chiacchiere, è il suo ritratto perfetto. Cioè, si rimprovera a Renzi di non aver fatto assolutamente nulla. Adesso lo devo dire, francamente, mi sembra eccessivo. Renzi, che tra l'altro ha detto... Io interverrò dopo la campagna elettorale. Dopo cercheremo di riportare le famiglie allo stadio. Ovviamente l'hanno detto tutti negli ultimi 20-30 anni e poi non è successo assolutamente nulla. E devo dire, do ragione anche a Saviano questa volta, quando attacca il capo della Federcalcio, Abete, dicendo lui è quello che sta lì dal 2007 con delle responsabilità, con dei poteri, e non è successo niente, le curve sono ancora occupate spesso da delinquenti. Per questo dico, David, che l'unica soluzione alla fine è quella di chiudere, di una moratoria di fronte alle pistole. C'è di fronte a Genny a Carogna ci sono le moratorie, la chiusura delle curve. Certi gruppi sono delle vere e proprie associazioni a delinquere. Cioè, oggi leggevo sui giornali, ci sono i tifosi della curva A. Ma che vuol dire i tifosi della curva A, organizzati, più violenti? Cioè, lo scrivono come se nulla fosse, li conoscono uno per uno, è un'associazione a delinquere, va chiusa. Raffaele da Brindisi, dai. Sì, buonasera. Volevo chiedervi una cosa a Parenzo. Sì. Ci è o ci fa? In che senso, scusi? Perché butta del fango non solo sui grillini, ma anche su altri i dipendenti della Radio 24, che quando finisce quella trasmissione insieme a te, che cosa fa? Succede che c'è un nuovo utili di cosiddetto, e si parla di stampanti 3D che possono fare le case. Sì. Le dentiere sono anni che si possono fare con le stampanti 3D. Allora, o è ignorante che non sa cosa gli succede intorno, scusi, o è prevenuto nei confronti dei grillini, non sono che io penso sia niente. La seconda. Sì, guardi. Stavo facendo una cosa che a casa mia si chiama ironia, cioè stavo scherzando con un comico. Ma Raffaele non lo conosco, non capisce questo passaggio, hai capito? Non stavo capisce questo passaggio. Stavo scherzando con un comico. E comunque il devo dirti la verità, Raffaele, devo dirti la verità. Oltre al fatto che Parenzo stava scherzando con un comico che fa la stessa cosa per di mestiere, al di là di questo, magari Parenzo sarà meno bravo, sicuramente non è il suo mestiere quello di fare il comico, però è un altro discorso questo qua. A me che Grillo mi dica che esiste dal punto di vista tecnologico la possibilità di fare le case in 3D, non me ne fotte una mazza, perché non mi interessa. È una cosa niente, quello se ne occupano gli ingegneri, i geologi, lo Stato certo deve agevolare le cose che fanno risparmiare energia, ma non mi interessa che fa un discorso sulle stampanti in 3D che mi permettono in alcuni casi di costruire dei prototipi o delle case, non me ne frega nulla, non è una soluzione. Le chiedo scusa, ma il politico in genere cosa deve fare? Soltanto andarsi a sedere o prevedere o diciamo cercare di fare il futuro in una certa maniera? Sì, va bene. E dico, queste sono le cose ma che deve fare il politico. Se un politico proporre le stampanti in 3D, proporre le stampanti in 3D. Proporre le stampanti in 3D. Quello è per dire un qualche cosa che nessuno ci pensa e tante altre cose ci sono in seguito, ma fare dell'ironia continua su un gruppo che magari forse ne uscirà fuori alla grande, e non dicono sempre fesserie, sono tutte cose che sono fondate. E questione non lo fa soltanto Parenzo, lo fanno tutti i telegiornali, lo fanno tutti quelli della sinistra e naturalmente quella gente che non può vedere Grillo, che gli sta togliendo la poltrona dal culo. Questo è il problema. Perché se realmente ma uno guardi, che fa una trasmissione che viene seguita da tante persone, nonostante la mia presa in giro, continuerà probabilmente a prendere i voti che si merita. Ma forse la deve ringraziare per questo, sì. Stampanti, la deve ringraziare la per questo, signor Parenzo. La deve ringraziare. Sorrida. Va bene, Raffaele, grazie. Francesco da Napoli, buonasera. Ma mi senti bene adesso, vero? Più o meno. Francesco, dimmi. Telefono fisso. Pronto? Mi sì, senti? Dimmi. No, stavo per la strada. Allora, io ho chiamato perché volevo intervenire per quanto riguarda quello che è successo. Francesco? Ho chiamato pure. Sì, mi senti? Dai, forza, parla però, amico mio, dai. Allora, io sono, mi autodenuncio, sono uno di quelli là che ha fischiato l'Inno Nazionale. Hai fischiato l'Inno Nazionale, bravo, complimenti, complimenti. Allora, ognuno sì, può fare quello che vuole, perché una, c'è la libertà di fischio, c'è la libertà di fischio, per carità. È un fischio che viene da lontano, da 150 anni di storia negata, 153 anni di storia negata. Sì, cioè lei va allo stadio a vedere la finale di Coppa Italia e si mette a fischiare l'inno italiano perché ci sono 153 anni di storia negata. Ma lei deve essere ricoverato. Cioè lei, se lei italiano ha rinnegato la propria storia, quello che è successo a Ponte d'Andosso, Casalduni, a Oletta, a Bronte, nessuno. Francesco, immagino che la ragione di quei fischi non siano le lezioni di storia o una ribellione agli eventi storici. Ma quale provengono? Ma quando? Si provengono con le cose e si radicano anche a una realtà attuale fatta su una politica che è completamente contro il sud e il meridione, anche se queste parole non mi piacciono, perché noi non siamo né sud né meridione di nessuno, ma siamo autonomi di una cultura siciliana e napoletana che ha 3.000 anni di storia. Sì. E quindi si radicano anche questo Stato italiano che da 20 anni, vabbè, per Francesco, esempio, massacra il sud senza. Sì. Dunque, lei ci vuole far credere che i fischi all'Inno Nazionale della curva del Napoli durante la finale di Coppa Italia abbiano motivazioni. Oppure perché l'Amoruso non ci piace. Motivazioni storiche. È una controversia che sta crescendo sempre di più nel meridione, non è che porterà dei risultati. Io, tra l'altro, sono anche un coordinatore di un partito politico, Unione Mediterranea. Sì. Benissimo, Francesco, arriva Unione Mediterranea, ma che ne so, Giampiero da Cosenza. No, non ti preoccupare, che queste sono cose che ormai sono partite e non si possono più fermare. Non si fermano, infatti non si ferma, ci dovrebbe pensare qualcun altro a fermarle. Giampiero da Cosenza. Buonasera, Cruciani. Vai. Allora, vi dico solo questo, cioè, secondo lei non era meglio che qualche scellerino andava da questo, come si chiama qua, e gli dava una bella manganellata in testa che gliela spaccava a quattro, così si discuteva il giorno dopo come mai i scellerini avevano rotto la testa a suo signore, visto che qualche mese fa, un mesetto fa, abbiamo parlato della cena del poliziotto che calpestava la ragazza alla manifestazione. Allora, la polizia quando deve menare, non mena. Quando poi, per un calcetto e via dicendo, devo sentire Alfano che mi viene a dire ma sa la polizia, guai chi la tocca, i carabinieri, guai chi li tocca, la finanza, la stessa cosa. Guardi, Giampiero, io fosse stato per me, ma io non mi occupo di ordine pubblico, io che quando c'è un signore che si mette lì sopra, no, le inferriate, no. Cioè, con scritto speciale libero. La polizia lo butto giù. Lo ammanetto e me lo porto. Quello senza perdere tempo. Non mi sembra, Parenzo, che questo ascoltatore però abbia torto, cioè, non mi sembra così. No, ma scusami, io siccome mi fido, a differenza di quanto ogni tanto tu dici, delle forze dell'ordine, sì, a parte alcuni casi che abbiamo detto, quando il prefetto di Roma, il signor Pecoraro, intervistato oggi dal signor Bonini. Sì, vabbè, ma l'hai ripetuto 4 volte verissima. E basta, su, dai. Ma no, ma è vero, perché se tu devi trattare, se tu sei in una situazione a rischio come quella, è chiaro che non ci si doveva arrivare a quella situazione per cui quel signor Carogna doveva starsene a casaccia sua con la sua maledetta maglietta e non mettere piede neanche a Roma, non doveva neanche uscire da Napoli. Vabbè, quel allora signore lì doveva starsene a casaccia sua, ma nel momento in cui capita quella cosa lì, ma è chiaro che l'interlocutore dei criminali è un criminale, ma è evidente, no? Cioè, mi sembra abbastanza lapalissiano. Con chi devi trattare se non con quel signore lì? Con Bubù, con il bubù che porta il bambino, il papà che porta il bambino allo stadio, il papà napoletano bravo che porta il bambino allo stadio, o con il signor Carogna per non aver casino? Ma tratterai con col signor Carogna, non con il signor bubù con il suo figlio, scusami. Antonio da Cremona, buonasera Antonio. Pronto? Dimmi, dimmi. Sì, no, ma fare due interventi. Innanzitutto, ma parallelo buffo che stamattina chiamo in Germania, la prima cosa che dice un mio cliente, dice: ma Antonio, ma in Italia cosa sta succedendo? Già lì la ennesima figura paradossalmente, sì. Al pomeriggio ne ho sentito un altro di cliente tedesco e mi ha citato il Bunga Bunga. Cioè, questa è la pubblicità, cioè quello che noi facciamo vedere all'estero. Io veramente mi vergogno totalmente di questo. Vabbè, tipo. Questa è la prima cosa, poi? Ma poi volevo, non lo so, mi ha dato fastidio il parallelo di Mughini con Beppe Grillo che prende i voti, anche Adolf Hitler ha preso i voti, però... Secondo me queste cose non dovrebbe neanche citarle Mughini, perché... No, voleva dire semplicemente che, caro Antonio, è molto semplice. Dice, non è che prendere i voti per forza sia un sinonimo di democrazia, eccetera. Anche Hitler, anche Mussolini presero a un certo punto i voti, punto. Cioè, non è che ha paragonato. Comunque sì, un po' ha paragonato. In parte, però sappiamo benissimo Hitler i voti come li ha presi uccidendo tutti i suoi avversari politici, cioè non si può fare un parallelo con Beppe Grillo che sta facendo propaganda però non sta eliminando con i coltelli o con le pistole sparando alla tempia. Va bene, Marco, ho capito benissimo, dai. Marco da Bologna, Marco. Luciani, sei un coglione, io te l'ho detto sempre, sei proprio un coglione, cioè veramente, ma la tua ignoranza, la tua oddio, stupidità. Questo è Marco il solito, questo coglione, è Marco il solito. Questa radio deve chiudere, questa trasmissione, punto. Sì. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Sì, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto. Ti spiego il motivo, te lo spiego subito. Spiegamelo, caro. Allora, tu sputi fango. Sì. Su che cosa, scusa? Sputi fango sugli italiani. Sugli italiani, addirittura. Questo paese ha un orgoglio nazionale da difendere. Noi non arriviamo alla fine del mese e tu calpesti la nostra dignità. Chiami tu, Parenzo. Eccolo. E ti partito da Bruxelles. Ma tu parli di sesso? Sì. Tu calpesti la dignità delle donne. Perché tu usi delle parole che non hanno senso. Sì. Tu sei un volgare, sei un bugiardo, perché tu sei anche bugiardo. Ma stavolta non è niente da dire, Marco. Come mai? Ti sono finite le parole? Ti appoggiano. Hai capito? Ma farti fare la trasmissione. Ma ti sono finite le parole? Tutti i nostri inviti valgono zero. Sì. Hai capito? Perché? Perché non hanno cultura. Questo paese ha bisogno di cultura. Sì. E tu sei la fessa. E mi meraviglio di quelli che ti danno i soldi. Scusa se te lo dico. Marco. Io vorrei che quello della curva, quello che stava là sopra, venisse a casa tua. Sì. Ma non che ti alzasse un dito, che ti parlasse. Ci scommetti che quello che ti dice è più interessante di quello che tu racconti in trasmissione? Marco, ma che perché quello che tu racconti in trasmissione è merda che scarichi sulla gente. Noi italiani non arriviamo a fine mese, passiamo la fame, te ne rendi conto? Marco. E poi ti dico un'altra cosa, ma secondo me che sei bravo con le fighe, dammi la tua Ferrari. Vabbè. E poi vai a vedere le fighe che sono. No, io sono la panda. Non ho nessuna Ferrari, Marco, addio. E il conduttore? Ok, me la potete raccontare come volete, me la potete raccontare come volete. Sì, certo, a un certo punto dentro lo stadio uno deve garantire l'ordine, per carità, le questioni pratiche, quello che vuoi. Ma tu te lo immagini uno stadio in un altro posto civile, in un altro sport qualsiasi, in cui c'è una specie di questore che si mette a trattare con un... Non esiste al mondo, non esiste al mondo. Poi certo, una volta che sei lì il danno è fatto, come dici tu, il danno è fatto, ti metti a trattare, però non esiste al mondo che tu ti metti a trattare con Gianni Acarogna, che parli con Gianni Acarogna, non si deve parlare con Gennaro Acarogna, amico mio. Ma amico, mi affondi una porta aperta, ma il signor Lacarogna non doveva neanche mettere piede a Roma. Questo è vabbè, il punto. Vabbè, fermo qui. L'esercito israeliano. Sì, l'esercito israeliano. Quando va a fare quegli straordinari raid dove ci sono i terroristi, con chi è che poi parla? Con Hamas o con la compagnia di San Francesco? Ma tratterà con Hamas, no? Cioè con i cattivi. Sì, di nascosto, non con la compagnia però. Di San... Però di nascosto. Lì, il paragone è questo. Lì si era in guerra. Sabato c'era una guerra. Ma quale guerra? Ma quando mai? Ma quando? Ma... Era una guerra. Fermo. Fuori fermo. Dallo stadio c'era una guerra. Addirittura c'è qualcuno che l'ha paragonata alla Minetti di sinistra, vedo qua su qualche sito internet. Si tratta del capo della comunicazione della lista All'altra Europa con Tsipras, quella che noi chiamiamo Tsipras, Paola Bacchiddu. Buonasera. Buonasera a tutti. Come stai? Come stai? Mi sento in un frullatore. Questa vabbè, è la mia sensazione. Frullatore. Hai avuto, come dire, vuoi essere in un frullatore? Hai deciso di essere in un frullatore? Scusami se te lo dico. Per me hai fatto benissimo, perché io non ho nulla in contrario. Ci sono un sacco di donne, anche amiche mie, con cui viaggiavo questa mattina in treno, che dicono: no, è uno scandalo. Come si fa dopo tante battaglie per la donna a mostrare il sedere, mostrare il culo, in sostanza, in una foto che è quella, penso, delle tue vacanze estive di non so quale anno, per dire: io sono disposta a tutto, anche a questo, anche a mostrare queste foto, purché si parli di ciò di cui non si parla o non si parlerebbe, cioè i programmi politici di Tsipras. Allora, perché ti senti in un frullatore? Scusa, l'hai voluto o no? No, guarda, la cosa è nata in maniera molto spontanea sul mio account Facebook, che mi rendo conto è una bacheca aperta, quindi sicuramente visibile. Però non immaginavo, ecco, di ritrovarmi accanto alla Minetti come paragone. La verità è che nelle scorse settimane abbiamo fatto una fatica terribile, sì, per avere uno spazio per i nostri candidati, uno spazio politico, con tanto di esposto alla GCOM. E quindi ho pensato, insomma, come si può fare a attirare un pochino di più l'attenzione? Appunto. Però, insomma, non pensavo a derive di questo tipo. Però ma evidentemente derive di che tipo? Ha funzionato, scusa. No? Scusa, derive di che tipo? Cioè, è successo che si è nata una discussione normale. Io penso che alcune esponenti della lista con cui lei si presenta hanno sempre parlato di corpo delle donne, di utilizzazione del corpo delle donne in politica, eccetera, eccetera. Poi lei fa una cosa del genere, di che si meraviglia? No, mi meraviglio. Di che perché ti meraviglia? No, mi meraviglio perché non pensavo che una cosa così risultasse in queste proporzioni, ecco, se vogliamo parlare di proporzioni. Poi ne è nata un'interessante discussione sul corpo, sì, sul femminismo e su tutt'altro, ben venga, evidentemente ho colpito nel segno, no? Parenzo? No, voglio dire, io ho visto e analizzato nel dettaglio stamattina la foto della signora. Nel dettaglio che vuol dire? Scusa, non ho capito. No, non c'è nel dettaglio. Nel dettaglio, cioè, non c'è niente da analizzare, una foto in cui si mostra sostanzialmente il sedere, il culo. Ho analizzato nel dettaglio. E oltre a fare i complimenti per la campagna che ha lanciato, e dico che ci vuole coraggio a mettere il proprio, come direbbe Pannella, corpo al servizio di Tsipras e della politica. Quindi non si deve pentire di nulla, anzi ora dovrebbe continuare a postare foto similari, perché purtroppo i media, e anche noi lo stiamo dimostrando, dimostrano che parliamo di Tsipras solo quando c'è il sedere di una signora, e questo è il punto, e lei ha ragione, deve adesso seguire la scia e continuare a pubblicare foto caste, bellissime, eppure come è nessuno parlerà più di Tsipras se uno pubblica. Come? Quando uno pubblica delle foto, ma diciamo, se tu pubblichi la foto del sedere di Casarini, ad esempio, ottieni qualche risultato? Non credo. Beh sì, assolutamente sì, purtroppo sì, nel senso che tutti parleranno del fatto che Casarini ha mostrato il suo sedere, magari farà ribrezzo a molte persone, oppure no, non lo so, però è così. Sarebbe straordinario, quindi purtroppo, siccome lei ha avuto... Però io voglio far notare a Paola Bacchiddu un'altra cosa, che in realtà oltre al costume, al sedere così mostrato, con un certo sorriso, con i capelli che coprono il viso, lei è anche su una barca, su uno yacht, cioè c'è la... No, questo... mi dissocio da questa interpretazione. Beh, come no? Ah, no, non è uno yacht, cioè doppia... tu non c'eri, lo so proprio io se era uno yacht o no. Vabbè, non una barca yacht, a vela, comunque non certo un simbolo della sinistra, come dire, c'è un simbolo anche qui, se vogliamo, di una certa agiatezza, se non addirittura di ricchezza. Dunque ci sono due cose, il corpo... Luciani, guarda, io faccio delle disperate, va, io sono sarda di Sassari, faccio disperate vacanze da un ventennio in un posto che si chiama Santa Teresa di Gallura. Perché disperate? Perché non è la Costa Smeralda come qualcuno ha imputato dicendo oddio lo yacht alla Costa Smeralda è nell'estrema punta nord della Sardegna di fronte alla Corsica. Vabbè, dove ho capito, ho però casetta. L'immagine è quella là, il scusa, mare è quello, lo yacht non è uno yacht, era una piccola barca di un amico, quindi so, questa interpretazione, se vi fa più piacere, era uno yacht ed era in Costa Smeralda, no, ma una barca davanti vedo, e passeggiavo a Champagna, ma è così, no, Paola. Magari fosse. Ah, magari. Dunque, di fronte vedo una barca piuttosto grande, a sinistra uno yacht alberato, e tu sei su una barca che non mi sembra una... Che devo dire? Cioè, gli yacht c'erano, non è che li potevo neutralizzare. Vabbè, è una foto di destra, diciamo la verità, è una foto estremamente ma di destra. No, ma è una grandissima foto della meravigliosa Sardegna, che non è né di destra né di sinistra, è trasversale. Ma pensi di avere un bel culo? Non lo so, non riesco a giudicare, forse mia madre lo sa meglio di tutti, mi ha fatto lei. E che ne so, da quello che si vede sì, però così, io adesso poi non voglio andare su questi particolari, su queste cose, sennò si trasforma in una roba strana. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Ormai è tutto degradato. Ne Busi qui da noi alla Zanzara vuole addirittura fare una class action. Una class action nei confronti del professore Carlo Taormina? Sentiamo. Io farei una class action proprio penale e civile contro la persona che fa una dichiarazione del genere. È giunta l'ora di andare a letto. Ad occhi chiusi stringo il mio orsetto, restare al buio a me non piace. Siamo qui 800 24 00 24 con caro Parenzo Paolo Abbachiddu, che ha mostrato il suo lato B per far parlare della lista Tsipras. Devo dire una cosa però, sue compagne di viaggio, caro Abbachiddu, in questo grande tentativo di far prendere il quorum alla lista Tsipras alle elezioni europee, sono persone che ogni volta che vedevano una donna nuda accostata o addirittura candidata con il centrodestra di Berlusconi inorridivano. Lei ha chiaro questo concetto? Sì, magari pure lei inorridiva. No, io non inorridivo. Sì, ho chiaro questo concetto, c'è stata una discussione interna, ovviamente non pretendo che tutti siano d'accordo, ma insomma, mi sembra abbastanza normale, no? Ricevo una marea di messaggi tutto il giorno, metà insulti, metà sostegno, quindi mi sembra abbastanza normale. Cioè, secondo lei le donne, per esempio, che andavano con Berlusconi erano prostitute oppure erano libere di fare quello che volevano del proprio corpo? Quali sono le donne che andavano con che frequentavano, le o quelle che poi avevano posti in consiglio regionale? Le oggettine, poi parliamo della Minetti, le oggettine. Non erano. Non lo so, ognuno è libero coscientemente di fare un po' quello che gli pare. Appunto. Dunque, lei non le chiamerebbe prostitute, le chiamerebbe o no? Non lo so, se le conoscessi forse te lo direi, ma non so chi siano, quindi non conosco così, la loro storia privata. Così, non so. Così le hanno chiamate per anni persone molto vicine alla lista Tsipras, cioè frequentatrici di Berlusconi, uguale prostitute che si facevano pagare lautamente da Berlusconi, o no? Persone molto vicine alla lista Tsipras chi sarebbero? Ma no, persone, Lorella Zanardo, eccetera, eccetera, altre persone. Non lo so, guarda, io parlo come capo della comunicazione, poi ogni candidata sì, naturalmente ha la sua opinione, ci mancherebbe altro. Parenzo? Volevo capire questo. La signora Barbara Spinelli, sì, figlia del grande Altiero, come ha preso questa iniziativa, diciamo, da terga? Barbara Spinelli è una donna estremamente intelligente. Non ci siamo sentite perché... Ma farà anche lei foto analoghe? Non credo. Bisogna chiederlo a lei, non lo so. Beh, secondo lei, visto lo stile della signora, dico... No, lo stile della signora ovviamente non è paragonabile al mio umile stile, ci mancherebbe altro, quindi non credo. Però sia servirebbe forse. Ve le state aspettando? No, no. Se voi no, le volete, io come capo della comunicazione obbligo tutti a spogliarsi, sia chiaro. No, non ho questo tipo di perversioni, però no, però uno per spogliarsi si deve anche, no, un minimo di come dire, di guardabilità ci vuole. Adesso non voglio fare, però... Questo però è molto, molto razzista come atteggiamento. Abbastanza, sì, se uno si mostra in pubblico... È partita una campagna, non so se hai visto. Sì, è partita una campagna, sì. Con i selfie di donne che si spogliano, un po' di tutti i tipi, sì, con l'hashtag ce lo chiede l'Europa. Sì, diciamo, voi state punt- adesso mi pare veramente assurdo, però adesso va bene tutto che magari no, non vi si filano le interviste, c'è una discriminazione, va benissimo i ricorsi che state facendo, però se puntate sul culo siete messi male, siete la frutta. No, ma io non ho puntato sul culo, io ho provato a fare un esperimento per vedere se si sollevava l'attenzione, mi sembra che sia riuscito pienamente, dopodiché si apre questo marco. No, ma sul culo c'è l'attenzione alla fine, cioè, ti assicuro che l'attenzione adesso, c'è più. Sono passate 48 ore, adesso sanno tutti io che cos'è, tutti non lo so, però insomma in molti che cos'è la lista Tsipras. Ma che sanno che cosa... Europa con Tsipras. Sanno, sanno, sono andati a spulciare tra le altre foto che hai per capire se c'hai foto nude, se, te, se fai vedere le tette, se, se, se tiri giù il costume, questo la gente purtroppo fa. Non ho tette, quindi non ho nulla da mostrare, però oltre a l'avresti questo fatto? Immagino... L'avresti fatto? No, sto scherzando, però oltre a questo immagino che adesso sappiano il nome della lista, così alcuni mi scrivono. Quindi cioè pur di far conoscere il nome della... pur di far ragione. Conoscere il nome della... No, ma io guarda che non è che ti sto dicendo che hai fatto male, hai fatto una grandissima... Che fai il puritano tu? No, ma assolutamente il contrario. Sì, Cruciani, non ti riconosco più, cioè no, mi fai Paola. Veramente il bacchettone. Ma tu dovresti dire, forza Tsipras. No, forza Tsipras non c'entra niente. Io dico semplicemente che è stata una ma grandissima... Ma un ruolo che non immaginavo, no, Cruciani, ma figuriamoci se io sono bacchettone. Io dico, hai fatto una cosa assolutamente grande dal punto di vista della comunicazione. Siccome nessuno sapeva, io per esempio non sapevo, ma per la mia ignoranza, che tu fossi candidata con Tsipras. Cioè ti conosco come non giornalista. Non sono candidata. Sei capo della comunicazione, benissimo, non lo sapevo questa cosa, probabilmente se fosse stata candidata l'avrei saputo, non lo sapevo, scopro questa cosa. Adesso lo sai. Adesso lo so, infatti questa è una grandissima... E vedi che ho colpito il segno. Però voi allora. Di Tsipras dovete essere contrari al fatto che le donne mostrano il culo in una, su internet per motivi elettorali, dovreste ma essere contrari. Tsipras ha 39 anni, è un ragazzo giovane, intelligente, cioè, e piace, che a Tsipras gli piace il culo delle donne, dici te. Vabbè, non lo so, spero per lui, è etero, quindi gli piacerà, immagino, questo non ho idea, ma mi sembra del tutto naturale, niente di scandaloso. Però capirà che questo è un modo, diciamo, riuscito, un esperimento riuscito per almeno attirare l'attenzione sulla lice, da qui in poi parlare anche di altro, come tra l'altro sta già succedendo, perché mi chiamano insomma per parlare di questa cosa e invece io li declino su dei candidati e loro allora se li prendono e li sentiranno. Mi sembra una cosa assolutamente. Ah, che cosa ha scritto Vespa? Allora, bella e brava Paola Bacchini in bikini per Tsipras, ma se l'avesse fatto una candidata di Berlusconi ci sarebbero stati, quali commenti ci sarebbero stati? E su questo Brunone ha ragione, Cioè anche tu probabilmente saresti stata lì a bacchettare una candidata della destra. Io, tu sei diventata, sì, saresti stata lì a bacchettare là. Che ne sai tu, mica mi conosci. No. Così, a intuito. Ma no, non sai neanche chi, fino a ieri non sapevi neanche chi fossi, no. Già sai che io no, vedi. Ho detto, sapevo benissimo chi eri, ma non sapevo che facessi la comunicazione di Tsipras, cioè, per cui non confondiamo e non diciamo cose sbagliate. Però non avendo avuto il piacere immenso, naturalmente mio, di conoscerti, tu che sai, ne sai magari io bacchetto no quelle di destra, giusto? No, ma per la storia del corpo delle donne, e Berlusconi quanto ha fatto male all'immagine della donna, ecco, ora parlaci un po' di questa cosa. Secondo te Berlusconi che immagine ha dato in questi 20 anni della donna italiana? Guarda, secondo me ogni donna poi è partecipe, no, di quello che gli viene proposto, no? Cioè siamo tutte delle deficienti in preda all'inconsapevolezza? Non credo, quindi la partecipazione è duplice. Berlusconi secondo me ha sbagliato a puntare solo su questo e magari a dare degli incarichi. Cioè per esempio la Minetti non doveva diventare consigliere regionale? Assolutamente no, ma questo è un altro discorso. Cioè non capito, tu puoi mostrare il sedere per Tsipras se la Minetti non può io diventare... Io non sto candidando, non c'ho un seggio in ballo io per le europee, se non hai capito, io curo la comunicazione, non sono candidata. Vabbè, ma è uguale, dai, che differenza ma c'è? Ma è uguale! Ma stai dicendo che anche... Non andrò al Parlamento europeo. Ma stai dicendo che anche le candidate dovrebbero farlo, se lo facessero non sarebbe male pure di attirare l'attenzione, dai. No, tu mi hai detto, mi hai lanciato una provocazione, non mi mettere in bocca le cose che io non t'ho detto. Tu mi hai lanciato una provocazione e ti ho detto scherzando, facciamo spogliare tutti. Dai, facciamo spogliare tutti, cioè i candidati. E facciamo spogliare tutti i candidati. Sì, stavi scherzando. Non è che uno dice facciamo spogliare tutti e poi dice no. No, ma guarda, scherzando. Scusami. Dimmi. Ma tu mi prendi molto sul serio. Voglio ricordare all'amica. Voglio ricordare all'amica e compagna una cosa che potrà esserle utile. Compagna di che? Quale compagna? 10 anni fa, Pannella, al Teatro Argentina. Sì, si mise nudo. Solo tu te lo ricordi. I candidati. Solo Emma, tu te lo ricordi, fu una cosa oscena, fu una cosa oscena, oscena. No, tu sei veramente razzista, ha ragione. Perché? Ma quello in un teatro fu, c'ero pure io, in un teatro, ma non su internet. Che c'è? Ma chi dice che cioè, pornografia? Il sedere casto e col costume della capa della comunicazione. Beh, casto, ma è un atto adesso di marinettismo puro, è un atto geniale, è un atto artistico, è una provocazione è politica. E non è come tu malamente pensi. Un atto erotico. Ma chi ha detto? Chi ha parlato di atto erotico? Sempre, si tratta sempre di far vedere il culo. Trattasi sempre di far vedere il culo, caro Parenzo. Questo ha fatto Gian Battino. Ma c'è culo e culo. Il culo, far vedere il culo in politica, come lo ha fatto Pannella, facendo vedere anche lo sbrindolo alle volte di alcuni deputati. È un atto politico, perché ci si mette a nudo. Ma qui qual è l'atto politico? Il fatto che la stampa non si occupa di Tsipras. Ma chi? Tu dai, su. Il fatto che la stampa non si occupa. Cioè l'informazione, dai, su. Di far vedere. E allora c'è la nudità. Comunque, dei corpi, la signora Zanardo, autrice del Corpo delle Donne, ha detto: nessuno parla di noi, un po' arrabbiata, e dovrei commentare adesso il culo della Bakiddu, cioè non mi pareva molto contenta. No, l'ho sentita infatti dopo. E che ha detto? Niente, abbiamo discusso di questa cosa e mi ha detto semplicemente che questa era una provocazione, dopodiché se da questo si parla di altro siamo tutti contenti naturalmente, cioè anche la gente è così rigida. Dal culo uno ha iniziato e al culo finisce, cioè questa è la realtà dei fatti secondo me, poi dopo uno mostra queste foto qua. Stai dicendo che ci serve una botta di culo per superare il 4%? Ma quello sicuro, quello come per tutti naturalmente. Vabbè, comunque sono delle belle foto. Prossima iniziativa. Comunque Cruciani, se vuoi venire nel finto yacht a Santa Teresa di Gallura quest'estate d'agosto, ti aspettiamo anche tu, Parenzo. Ti aspettiamo al plurale, cioè aspettiamo la Sardegna, ci aspetta, diciamo, la Sardegna, la Sardegna. La mera, i sardi aspettano te e Parenzo. Eh? Beh, io ci vengo sicuro, cara, grazie. Ecco, bravo. Va bene. Ma chi facciamo spogliare per attirare il voto omosessuale? Però voi naturalmente, voi due. Cioè, per attirare il voto omosessuale, non ho capito. Sì. Beh, sì, no, sì, ma sì, che c'entriamo noi? Non buttarti via così. Beh, io guardo, io non mi butto per niente via, al contrario. Io se questo potesse servire sì a far ecco conoscere l'esistenza della lista Tsipras. Ancora con questa lista Tsipras, ma non devi far conoscere nessuno tu, ma che ci importa, no, a noi? È giusto che, no, lei pone un problema di democrazia e di comunicazione che è giusto. Poi io ho detto, non è che voterò Tsipras, io ho detto cosa voterò e non lo ripeto più, anche se sono simpatici gli amici di Tsipras, ma se questo servisse a farmi conoscere, sarei anche pronto dai, a mostrare ma che il mio roba, cosa? Corpo. Cosa? Così nudo, con l'uccello di fuori? No, beh, adesso, perché scendi sempre nel dettagli, tu sempre. Beh, certo, i dettagli sono fondamentali. Comunque Renzi, in un'intervista al TG1, anzi a Porta a Porta, ha detto: parlare con gli ultra è stato un errore, ma è vergognoso usare questi temi a fini elettorali. Cioè, dice, nega, cioè dice di non voler entrare nella vicenda per fine elettorale, che dice che è stato un errore parlare con gli ultra. Ma è incredibile, guarda. Grazie a Paolo Bacchiddu. La zanzara è quell'odioso insetto. Giulia Cruciani, glielo devo dire, lei sarà un fissato, ma è un fissato col sesso, perché basta che gli parlano di sesso, lei ci si ne butta a capofitto. Ma peggio è pure lo spray a di zanzara, mi sono messo che ma lei si abbiamo Massimo da Firenze. Buonasera Cruciani. Dica, intanto leggo una cosa fantastica, Parenzo, ovviamente sull'immagine di Jenny Acarogna su internet c'è qualsiasi cosa, no? C'è uno che ha messo la testa di Berlusconi con una maglietta dell'Utri Libero invece di Speziale Libero, con tutto un Berlusconi tatuato, con scritto Silvio Acarogna, con scritto dell'Utri Libero, fantastico. Allora vai Massimo. Allora, sì, adesso faranno Cruciani a Carogna. Ah sì, senta, intervengo per questo, proprio a proposito allora? Di Jenny a Carogna. Lei prima si domandava qualche minuto fa il motivo per cui com'è possibile che in Italia, nel nostro paese, ci possa essere un simile episodio, come possa accadere. Io allora mi domando, ma com'è possibile che una radio, come dire, patinata, seriosa, come Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, che fa dell'informazione rigorosa sull'economia, la legge, quindi temi seri, poi possa fare una trasmissione come la sua. Perché è successo, perché nella vita è successo questo, Massimo, nell'evoluzione delle cose, e nelle cose ci sta anche questa roba qui. Assolutamente sì, è successo anche che ci fosse Jenny Carogna. Cioè lei ci sta paragonando a Jenny la Carogna. No, insomma, assolutamente, io sto paragonando il nostro paese a un grande teatro, il cui il principale scopo è far caciara. Sì. Cioè, lei fa informazione, fa ironia, no, fa un po' di caciara. Sì. Dal politico, ecco il professore, ecco il professore, ecco il professore, ecco l'esperto di comunicazione, ecco l'esperto di radio, Massimo da Firenze, che ci dà lezioni su cosa fare alla radio. Prego, professore, si accomodi. Prego, si accomodi, professore Massimo. Si accomodi. Allora, siccome lei faceva una domanda, io ho provato a dare una risposta. Ma io non faccio nessuna domanda, è lei che è intervenuto. Non sono intervenuto. Lei ha detto: com'è possibile che in Italia? Io provo a darle una risposta. Prima, sì. Si è fatta questa domanda. In Italia ci piace la caciara, ci piace gli urlatori, fan casino, che buttano tutto a donne di facile. Poi alla fine di risolvere il problema del calcio o della violenza negli stadi non gliene frega nulla a nessuno, se no l'avevano già risolto. O mi vorrebbe dire che è un problema irrisolvibile, l'hanno risolto dappertutto? No, assolutamente, ma con questo stesso criterio dovrebbe, secondo lei dovrebbero risolvere il problema Zanzara, ma non esiste un problema Zanzara. No, assolutamente, la Zanzara dovrebbe qualificarsi per quello che è. Sì. E invece fa caciara, cioè me lo dica lei cosa fa la Zanzara. Caciara. Senta Massimo, è una cosa troppo lunga e troppo impegnativa e soprattutto troppo noiosa per continuare a parlare di queste stronzate su cos'è la Zanzara. L'ascolta, se le piace, bene. Se le fa venire in mente qualcosa, bene. Se la fa ridere, bene. Se si indigna pure, se si incazza altrettanto, se ogni tanto, come dire, le viene un moto di rabbia, pure. Ci sono tanti motivi, ha capito? Ci chiama Gianluca da Barallo Sesia. Barallo Sesia, sentiamo chi è. Gianluca? Pronto, sono io. Ho dovuto farmi chiamare così, sono Gianluca Buonanno, perché sennò qua non mi ascolta più nessuno. Io voglio essere votato, devo andare in Europa. Ma dai, Gianluca, calci nel culo Schulz. Gianluca, come calci nel culo Schulz? No, ma sì, quello è un idiota, è un idiota. Perché? Che ha fatto Schulz? Sta trattando con me delle pezze da piedi. La Merkel è una nazista economica e Schulz è il suo amichetto. Scusa, basta. Ma che ha fatto Schulz? Se lo spieghi, ma adesso perché rompe le palle su tutto, non ha fatto niente. Qua continua ad arrivare i clandestini. Io ce l'ho la soluzione per i clandestini. Qual è? Qual è? Portarli tutti all'asinara, li teniamo lì in quarantena, perché con la possibilità che ci sia l'Ebola virus qua rischiamo tutti, eh. Lo sai che negli aeroporti c'è il codice rosso adesso? Dov'è che dobbiamo portarli? Scusa, i... All'asinara. E mandiamo anche a Parenzo, che sta bene con quelli lì. All'asinara. All'asinara, li teniamo tutti lì in quarantena. Parenzo? No, guarda, Parenzo deve andare a mettere con i clandestini. Parenzo, allora mandiamo anche la Boldrini. Tu sei la sciagura di questo paese, la sciagura, sei l'ebola vivente, sei l'ebola della politica, tu sei l'ebola della politica, tu devi prenderti il virus, che così abbiamo molta possibilità che va al creatore, Parenzo, il 90%. Cruciani, scusami, se tu tolleri che un deputato della Repubblica chiami nella più importante radio nazionale, nel programma più ascoltato, per fare dei delitti e farsi la campagna elettorale costruita. No, ma ha chiamato lui, cosa ci posso fare? Non è che l'ho chiamato io, ha chiamato lui. Ho chiamato da solo perché qua non mi ascolta nessuno. Solo la gente. Ha dato un pesce dentro la camera. Sì. Voglio essere votato, l'incubo di Schulz, la Merkel e tutta quella merce lì. Senti, ma che, come la merce? Come merce, Gianluca? Quella merce lì, quella categoria lì, volevo dire. Scusami un attimo, Gianluca, ma che ne pensi, dato che ormai ci hai chiamato, di questa vicenda degli incidenti in cui sono stati coinvolti i tifosi del Napoli? Tifosi del Napoli, sì. Caro Gianluca, cosa ti fa venire in mente questa cosa? Allora, ieri ho visto una scena. Sì. Prima voglio dirti una cosa, non c'entra niente. Io ne ho piene le scatole. Sì. Di vedere preti che fanno la campagna elettorale. Ah, preti. Io sì. Vedo costantemente preti, sarò sfortunato io. Sì. Si vede che non mi amano certi preti. Fanno la campagna elettorale per i comunisti e continuano a farla questi preti anche in provincia di Vercelli, in provincia di Novara. Ma chi sono questi qua? Non ne posso più. Chi sono questi, scusa? Sono preti a Borgo Sesi, a Varallo, che a Varallo quando sono galera c'è la lista, c'è il prete che appoggia la lista di sinistra. Adesso sono a Borgo Sesi, c'è il prete che appoggia la lista di sinistra, che va a parlare con la gente e dice: non votate Buonanno che è un disgraziato, ahimè, votate quella di sinistra. Adesso per dire, ma i preti facciano i preti e io faccio la politica. Ma scusa, il Papa dice determinate cose, cioè sei boicottato, in modo che i vescovi facciano sì che i preti che sono sotto di loro facciano esclusivamente, cioè, i preti. Ci sta dicendo Parenzo perché praticamente viene boicottato dai preti, capito? Viene mamma mia, no, ci sono anche preti miei amici, ma non fanno politica, i preti fanno. Vabbè, preti. Al di là dei preti, poi? Ma lui deve boicottato, non boicottato, il buon senso. Ma che vorrebbe dire? Ma il prete deve fare prendere lì io capisco, ma i preti potrebbe stare in una clinica assistito da un paio di infermieri. Vabbè, allora Gianluca, non ho capito, sugli incidenti dei... Sugli incidenti ho visto una scena paradossale, come abbiamo visto tutti. Allora, quel delinquente, lì disgraziato che c'era lì arrampicato, che faceva lo scimmione, che diceva lui cosa ci doveva fare. Però sì, la cosa che mi ha dato molto più fastidio è stato vedere Renzi, che aveva una faccia da veramente da Mr. Bean che non diceva un tubo, ma ancora di più il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, e che doveva fare? Super capo dell'ultima, che stava lì come un burattino, un ebete, a vedere una roba del genere. Quello doveva scendere in mezzo al campo e dare ordine e dire che cosa si doveva fare, punto e finito. Ma il presidente del Senato non può dare ordini Ma scusa, per la sua esperienza e perché rappresentava lì la massima autorità dello Stato, non possiamo fare in modo che ci sia uno scimmione là sopra che decida che cosa si deve fare, perché l'Italia ha fatto una figura nel mondo, scusate il termine, di merda, un'Italia che ha fatto una figura veramente da terzo mondo, e noi dobbiamo aspettare quell'altro che decida che cosa dobbiamo fare. Ma che figura è? De Laurentiis lo stesso, che parla tanto, poi in quel momento stavano lì tutti a scimmiottare, che cosa? Con la speranza che ci fosse quello lì a dirti che cosa dovevamo fare. Ma è una vergogna, invece di difendere la polizia, invece di difendere le forze dell'ordine e tutta la gente per bene che è andata a vedere uno spettacolo, risultato è una vergogna. Vabbè, Parenzo, però su questa cosa qui non si può dare tutti i torti, non c'è, secondo me, grasso e non poteva fare nulla. Dimmi che c'è. Buon anno. Sì. Dia lezioni di montone di gestire dell'ordine pubblico. Sì. Beh, questo no, perché altrimenti potremmo affidare il governo della Padania a E.T. probabilmente. Ah. Telefono casa. Cruciani, probabilmente è molto più credibile. E.T. lui che si è presentato sul palco di questa Pontida con una lenza, con una canna da pesca, con addirittura un pesce, prendendo in giro quel che ha fatto chiedere scusa, avendo sfregiato le istituzioni, con la sua stessa presenza ha sfregiato le istituzioni. Scusa Gianluca, un'ultima cosa, ma hai visto questa candidata di Tsipras? C'è anche il partito di Selle che ha fatto vedere il culo pur di essere votata, anzi no, perché non è candidata, pur di far parlare la lista a Tsipras, ha mostrato il culo. Il culo. Allora io in confronto sono uno statista, cavolo. Però ti volevo dire che Renzi con quegli 80 euro deve spiegare bene che li usiamo poi per le medicine, per curarci la TBC, la sifilide, la scabbia che ci stanno portando i clandestini. Ma dai, Renzi, su. Sì, portano tutte queste la cose. Scabbia. La scabbia. A Lampedusa ci mandiamo la Boldrini. Ma dai, su. Tutti. Ma com'è che sei? Contenta. Sei contenta? Se li prendesse a casa sua i clandestini, la Boldrini, si vergogna. Ma perché pensare che la figlia deve avere la guardia del corpo bella? No, ma però scusami un attimo, adesso davvero sei convinto che portano tutti queste malattie? Dai, su. Ma certo, ma parla con i medici e vedi cosa ti dicono. Possono portare TBC, la sifilide, la scabbia e l'ebola virus. Ma che cosa? Siamo contenti, perché dopo due giorni che sono in Italia scappano e nessuno sa dove vanno. Le prefetture sono tutte delle prese in giro, perché i prefetti li tengono. Dopo due giorni scappano e tu non sai dove sono, però hanno il telefonino, da campare devono campare, e se sono malati che ne sappiamo? L'ebola virus ha 21 giorni di incubazione, se scappano dopo due o tre giorni mi spieghi come facciamo a saperlo? Parenzo, hai paura dell'ebola? Parenzo, hai paura dell'ebola o no? Io ho paura di buon anno. Cioè, a me deve averne sempre di più, ma non solo tu, la Merkel, Schulz, perché se va là, ti rompo a sedere, con un bastone, perché siamo stufi di essere presi in giro. Dai, con un bastone. Ma dai, su, con un bastone vuoi rompere il culo alla Merkel? Ma che è, Gianluca? No, no, ma no, ovviamente, sto parlando in senso metaforico. In senso metaforico. Comunque mi segnalano da Napoli che De Laurentiis non c'entra una mazza con quello che è successo, gente molto... Che c'è, però era lì e discuteva. E che doveva fare lì? Dire allora, amici miei, non mando Amsic, il capitano, a parlare con quel gorilla. Quello pure è vero, quello è vero. Allora ritiro la squadra e giochiamo un'altra volta. Ma vabbè, scusa, Gianluca, ma veramente fa tanto il furbo lì, mette le mani addosso al tifoso che gli fa una critica e poi non è capace in quel momento di tirare fuori i coglioni e dire la mia squadra non gioca questa partita. E della Valle, l'altro che fa, ma era sempre peggio, tutto moralista, anche il moralista della Valle, ritirare la squadra, ci vediamo domani, quello dovevano fare. E intanto lo Stato metteva un punto fermo, e invece siamo dei cretini. Dobbiamo fare come l'Inghilterra. Capito, il prefetto. Se anche parli male, va in galera. Parenzo, il prefetto Buonanno sostiene che la partita bisognava dire arrivederci e grazie, ci vediamo domani, capito? Parenzo, capito? Guarda, Buonanno, io credo che il mio amico, i nostri amici, i fratelli Vanzina, l'unica cosa che possono fare, che possiamo fare, che possiamo sperare, è che scritturino buon anno per il prossimo vacanza di Natale facendo il fare sicuramente una parte, farà un bel risultato. È l'unica cosa che noi possiamo sperare per salvare questo paese. Senti, però io vorrei Gialù, che scritturano a mettere i film di De Laurentiis, vorrei anche con me Parenzo, perché secondo me raglia bene, potrebbe fare una bella parte. A presto, ciao. Dove è andato? Gianni da Napoli. Gianni, salve, buonasera, scusi, io ieri sera mi trovavo allo stadio, ero in tribuna Montevario, sì, praticamente, e quindi praticamente che cosa vi dico? Io mi sono messo due secondi nei panni di questi poveri cristi che stavano, Renzi, il prefetto, De Laurentiis, tutti quanti là stavano a inciuciare così, sì, e poi mi rendevo conto, ma perché tutti questi fischi? Allora alla fine mi sono messo a fischiare pure io, perché poi è chiaro che tu vedi le istituzioni lì impassibili, la partita doveva iniziare alle 9, poi dopo è iniziato alle 10:15, allora tu ti chiedi, dici, ma che cosa stiamo facendo qua? Allora, De Laurentiis, io parlo da napoletano, che doveva fare? De Laurentiis doveva prendere la squadra e se ne doveva andare tutti quanti a casa. E devi dire, senti, per favore, questa partita è invincibile, se fossi stato. Ma non è semplice tirare fuori 50.000 persone da uno stadio, dai ragazzi, però questa cosa qui bisogna capirla. Cioè, il problema è che queste persone sono organizzate e bisogna scioglierle come organizzazioni criminali. Ma perché ci sono le infiltrazioni, le intercettazioni dappertutto e non ci sono in questi gruppi di criminali? Bisogna applicare le stesse regole che si applicano per le organizzazioni criminali, la mafia, la camorra, criminalità organizzata, eccetera, eccetera, associazione a delinquere. Spettacolare. Allora, innanzitutto voglio dirvi che voi due a volte mi fate talmente incavolare che sareste veramente da sberle, però vi ascolto sempre. Oliviero Toscani contro Mario Borghezio. Sentite. Non ha cervello, povero uomo. Come non ha cervello? Non ha cervello, è un porco razzista schifoso che non si può prendere in considerazione. Un porco razzista schifoso che non va preso in considerazione. Borghezio è una diarrea bianca. Adesso. Borghezio, volevo ringraziarvi per avermi invitato a questa puntata nella quale possono nascere solo cose belle, grazie. Una diarrea bianca. Io mi chiamo Borghezio invece. Diarrea ti chiamerò da adesso in poi. Oliviero Toscani, ah, il mio amico. Quello della campagna a favore della società multiraziale. Sì, la conosciamo bene questa campagna. Bene, mi fa piacere che non era campagna, così scemo allora. Molto utile. No, sì, molto lei, utile. Lei veramente ha deteriorato la sua intelligenza. Con le campagne e le pubblicità della società multiraziale. Complimenti. Grazie. Scusa, mi fa veramente schifo la pubblicità della società multinazionale. Lei mi fa veramente schifo. Sempre. Ai poveri del terzo mondo, nel loro paese li sfruttano. Per chiosare questo tuo diarrea. Complimenti, signor diarrea. Diarrea è lei, non io. Scusi, lei è la diarrea. Complimenti al signor diarrea. La società multiraziale serve agli speculatori come quelli, come il signor Diarrea, che fanno pubblicità e soldi con la propaganda della società multiraziale. Bella capito? Gente, capito? Bella gente. È grande, sei grande, Borghezio. Bella gente, tutti i miliardari, miliardari. Loro, gli extracomunitari, ce li hanno in casa, coi guanti bianchi a fare i servi. Sì, allora tu sei un morto di fame, sei una diarrea morta di fame. No, vabbè, ma capito. No, è la diarrea, non lui è la diarrea. Mario, ti saluto, ciao. Ciao, diarrea. Stefano da Modena. Stefano. Pronto? Vai. Buonasera, Stefano. È quasi un onore parlare con lei, se non fosse per quello lì, per Parenzo. Vabbè, vai, su, forza. Io volevo intervenire sulla questione di sabato, della parte di quello show che è andato in onda sabato. Sì. Volevo dire, tutti stanno show, telefonando, stanno dicendo c'è una Carogna qua, c'è una Carogna lì, che era lì su. Mi sembra che adesso il problema è Gennaro Carogna. Mi sembra che ci siamo dimenticati che c'è un tifoso del Napoli quasi morto ammazzato. Sì. Ma il problema principale non è Gennaro Carogna, come diciamo a Napoli, tiene il palle che stava lì su. Ah, non che è cos'è lui che fa? Grande. Che tiene le palle quello là? Non è, no, non sto dicendo questo. Non è che è lui che ha le palle, è il governo, è lo Stato che non serve a niente. Non è lui, no, lui fa praticamente... fa il guappo perché non c'è nessuno che lo contrasta, perciò è lì su a farci fare la bella figura in Europa e nel mondo e tutti quelli che ci hanno visto. E poi un'altra cosa, a me mi sembra che quando si parla di Napoli, si fa sempre di tutto per buttare la merda su Napoli, è sempre così. Un saluto anche al mio amico Buonanno che abbiamo... No, però scusi Stefano, abbiamo nascosto il fatto che c'è un tifoso morto, ci siamo messi quasi morto, ci siamo messi a parlare di Gennaro Carogna. Questo è il problema di quello che è successo. Il problema è che io posso stare con mio figlio perché c'è uno Stato che non è capace di difendermi da Gennaro Carogna e tanti altri. Ma certo, ma non c'è dubbio, ma non è che nessuno mette in dubbio che ci sia un tifoso, ma quello è un episodio di criminalità, ci sono ancora le ricostruzioni in corso, pare che abbiano sparato, pare che a sparare sia stato solo quel tifoso della Roma, però oggi ci sono anche delle novità da questo punto di vista, forse c'era addirittura uno scontro programmato tra tifosi, eccetera eccetera. Va bene, Paolo da Milano. Sono cose che sono sempre successe sugli stadi e che solo dai si finisce sempre peggio perché c'è mai nessuno che mette la parola a fine con delle leggi. È vero. Paolo da Milano, Paolo. Sì, io mi associo a quello che ha appena detto questo tifoso. Cioè qui continuate a parlare di Gennaro Carogna per fare sensazionalismo. Sì. Ma c'è una persona che si è messa a sparare altezza uomo per uccidere diverse persone e di questa persona non state neanche parlando. Perché c'è questa moda di Napoli a cui voi vi siete associati. Ma di cosa dovremmo parlare? Associati. Ma noi non abbiamo parlato. Gennaro Carogna. Voi innanzitutto deve informare Cruciani, perché innanzitutto il questore ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa che c'è stata tra lui e la curva. A parte che non è vero, non l'ha smentita affatto, anzi l'ha confermata. L'ha smentita in pieno, Cruciani. L'ha confermata. Ecco, quando mai? L'ha confermata. Pecoraro ha detto che si è parlato, a parte che ci sono indiscrezioni giornalistiche che parlano di richieste fatte dalla curva che sono state accolte alla fine per proseguire, comunque per fare iniziare la partita, ma a parte la ricostruzione giornalistica, lo stesso Pecoraro ha detto che con quelle persone lì bisogna parlare. Il problema è che quelle persone siano là e siano entrate lì, ma con certe persone bisogna parlare, bisogna comunque trattare, anche solo per ammansirli, anche solo per capire cosa sta succedendo in quella curva lì. È così, questa è la questione. La persona poteva rassicurarle, il capo tifoso e il capitano della squadra. Da lì avete montato un caso incredibile. Ma non parlando di una persona che ha sparato le gambe di un'altra. Ma questo è un episodio su cui non c'è nulla da dire. Che cosa c'è da dire su questo? C'è un'indagine in corso, punto e basta. C'è una persona che si mette a parlare in una piena città ad altezza uomo e mi sembra questa la notizia importante. Ma la infatti cosa è stata. Se fosse successo a Napoli, Cruciani, tu avresti messo le bandiere. Quali bandiere? Ma di che come stai quando parlando? Prendi in giro tutti i neoborbonici, cioè te non sono neoborbonico, guarda, assolutamente. Però i tuoi amici padani, Salvini, con questo brillante curriculum universitario che parlano di Padania, un'entità che non è mai esistita e mai esisterà a livello geografico e storico. Questo che c'entra? Quelli tu li accondiscendi, invece quando senti i neoborbonici ironizzi, ridi. Abbiamo ironizzato, è una vita che abbiamo ironizzato sulla Padania. Professore, dai su, ma non hai, se non senti, peggio per te, che vuoi che ti dica? Sono come zanzare, queste ombre sulla strada. Dalla provincia dell'Aquila, Don Aldo Antonelli, parroco ad Antrosano. Buonasera. Buonasera a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, Don Aldo Antonelli, tra i primi firmatari dell'appello di Micromega, scrive ogni tanto sulla Huffington Post, è uno di quelli che sostiene che alla fine Berlusconi la galera se la merita, no Don Aldo? Non è se la merita, dovrebbe scontarla. Per via dell'età potrebbe anche, però questa storia che sconta la pena con 4 ore di finta assistenza la settimana, un vecchio, perché Berlusconi è un vecchio, sì, che deve essere accompagnato da una terza persona, sì, per assistere una quarta persona, fa ridere i polli, guardi, fa ridere. Cioè, che cos'è che fa ridere i polli, scusa? Il fatto che faccia servizio sociale, il fatto che alla fine sconti 7 ore in tutto? Ma come, 4 ore alla settimana, un 7 vecchio giorni. Che assiste un vecchio? Ma mi faccia ridere. Cioè, una pena ridicola. Io so che per l'assistenza c'è bisogno di personale specializzato, sì, che sia competente, abbia esperienza, specialmente poi per l'Alzheimer. Lei sa benissimo, l'Alzheimer non è uno scherzetto. No. Persone per cui, secondo lei, è una buffonata tutta questa roba? Appunto, è una buffonata. Ma per lei, solo un cervello formattato può non scandalizzarsi di queste scelte. Scusi un attimo, allora, la colpa in questo caso di chi è? Scusi, dei magistrati allora? Ma io oppure delle pressioni, di Berlusconi? Stati, sotto pressione di varie forze politiche. Ho l'impressione, parlo di impressione, non siano stati liberi di scegliere. Cioè? Sai, le forze politiche, le propagande, le pressioni, i condizionamenti, è lui che continua a dire che se veniva condannato ci sarebbe stata una guerra civile in Italia. Sì. Ma secondo lei Berlusconi che cos'è, secondo lei? L'essenza del male? Cioè, se scomparisse a un certo punto, se morisse, l'Italia andrebbe meglio? Berlusconi per me è un delinquente, un recidivo, sì, e siccome qualcuno mi rimprovera come sacerdote dovrei avere pietà, ma io ho pietà per la povera gente che sbaglia, va aiutata a correggersi, è geneticamente incapace a correggersi. Capito, Parenzo? Ho capito che lui, che ogni tanto leggo non capisco bene. Parla, su, dice, dai! Parla. Come dice Donna? No, non capisce quello che dici. Parla, forza. No, dico semplicemente, lui è chiaramente Don Manetta, ma voglio dire, va bene, perché ci sono tanti uomini di chiesa che ritengono che Berlusconi sia un farabutto, un criminale, ma ha una sua opinione, nonostante sia un uomo di chiesa, questo non mi stupisce. Sì. Mi stupisce però soltanto il fatto che, siccome la magistratura stessa ha riconosciuto che, vista l'età del condannato Berlusconi, gli si dà la possibilità di fare i servizi sociali, addirittura un prete che dovrebbe essere mosso anche da pietas verso gli anziani, invece chieda il gabbio, chieda proprio il carcere. Ecco, questo un po' mi stupisce da Don Manetta, però va benissimo. Insomma. Antonelli? Scusi, posso dire una cosa? Sì. Io dico, che servizio sociale è? 4 ore la settimana, mi dica che servizio sociale è? Quando lei mi spiega io posso anche accettare l'alternativa al carcere, un servizio sociale. È una cosa simbolica, Ecco, quindi è una cosa simbolica, cioè simbolo di che cosa? Simbolo di una libertà abusiva. Ma scusi, simbolo io prima. Di una libertà abusiva. Prima le ho fatto una domanda, don Antonelli, ma. Berlusconi. Ma chiamalo Don Manetta, non Don Antonelli. No, Don Antonelli, tu chiamalo Don Carcere, Manetta. Chiamalo. Ma perché Don Carcere? Non ho capito. Perché no, perché in genere io sono abituato, per quel che conosco della Chiesa, che ci sono appunto preti, cappellani che lavorano nelle carceri, sì, e che anzi sono tra quelli che in genere spingono a che il detenuto acceda alle pene alternative. Qui invece siamo di fronte a un simpaticissimo uomo di Chiesa. Chi chiede il carcere per un uomo ultra settantenne? Ma secondo lei si è pentito? Lo chiamo Don Manetta. Secondo lei si è pentito di Berlusconi delle cose che ha fatto? Donaldo? Ma come fare? Lui dice che siccome è innocente non deve pentirsi. Quello però ognuno si può sentire innocente. Appunto, no? Io ripeto le parole perché le misuro. Secondo me Berlusconi, per quello che lo conosco, dai oltre 20 anni che sta sulla scena politica, ha dimostrato di essere geneticamente incapace di ricredersi su se stesso. Cioè, secondo lei è geneticamente un delinquente? Beh, geneticamente un delinquente è un'altra cosa. Quello per me è un delinquente, ma geneticamente andiamoci piano, insomma. Per esempio, si parla di Marina Berlusconi come una possibile, no? Come possibile successore. Lei che pensa? Ma io penso che non cambi niente, non in cambia che senso? Niente finché c'è quella famiglia in Italia, una famiglia che sappiamo come si è arricchita, è inutile che richiamiamo e cacciamo fuori il discorso della banca Rasini, mancano c'è la stessa la famiglia Casati, la villa di Arcore, Milano 2 con il comparuccio Craxi, lasciamo perdere tutte queste cose. Queste sono la dimostrazione che non si è fatto ricco lavorando. No, e come? Secondo me si è fatto ricco rubando, sì, e avendo vie preferenziali su mille campi. E delle donne? Sembra che si sia fidanzato, sembra che si sia tranquillizzato adesso. Poveretta lei, quella Francesca. Perché? Si ricrederà come le altre due che ha avuto. Perché dice che si ricrederà? Beh, visto che un anno non è andata bene, l'altra non è andata bene. Auguro che se la storia dice qualcosa, no, non c'è due senza tre. Vabbè, però Donaldo, su, ma lei li guarda i canali Mediaset, Donaldo? No, io i canali di Mediaset l'ho memorizzati nella mia televisione oltre il 500, oltre il numero 500, per cui se c'è qualche amico che io dico che in casa mia non si vede Mediaset, non si vede, però se qualcuno vuole proprio sarà costretto, non dico il numero, sarà costretto a fare 500 volte a pigiare il tasto se c'è la pazienza. Beh, basta, per arrivare fino a 500, basta fare pure 500, 500 sul telecomando, non è molto difficile. No, ma non glielo dico, quindi lui va da uno e continua, non gli dico il numero. Oh, devi sapere, Parenzo, che Gasparri ha dato del comunista a Donaldo, guardi, io non credo che sia sentirsi, le posso dire, Caccio, dimmi. Le posso dire, Michele si chiama lei, no? No? Giuseppe. Scusi, Giuseppe, sì. Le posso dire che per me essere chiamato comunista, sì, è un aggettivo qualificativo. È il termine fascista che ritengo che sia un aggettivo squalificativo. Cioè sta parlando di Gasparri come un fascista, in sostanza. Perché che cosa è stato e che cosa è dentro secondo me è ancora un fascista. Mamma mia, ragazzi. Donaldo, lei è scatenato. Vabbè, ci dobbiamo sentire domani. Paolo da Lucca, grazie Donaldo. Paolo. Sì, ciao. Veloce. Volevo sapere, Lorenzo è così piacevole, clandestini. Quanti ospita a casa sua? Solitamente. Ma non è che se uno a parte che non è favorevole ai clandestini in generale, ma come, non è che uno poi li deve ospitare a casa sua? Ma di che stiamo parlando? Appunto. Cioè, ospitare a casa sua, dai. Domani 18:30, ciao. No, io non penso che assolutamente che voi siate un grande eroe, per carità. Penso che talvolta tiriate l'elastico, cioè che nell'esporre le nostre macchiette ci inzuppate il biscotto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questa radio deve chiudere, questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Radio 24, la passione si sente.